lotta da in queste giornate e che appunto è stato portato avanti attraverso i vari strumenti appunto di comunicazione, i social network in particolare e appunto la pagina di Roma Comune che è una piattaforma appunto nata da poco in una 3 giorni appunto di fine anno, cioè prima dell'estate, e che è riuscita insomma in questi giorni tramite la campagna Io non dimentico, che è una campagna appunto che è stata lanciata anche da per quanto riguarda Renoiz, come una campagna che voleva essere da una parte una legata alla memoria, al ricordo, però metterla anche in una prospettiva insomma dinamica, attiva, perché appunto abbiamo sempre detto che la memoria non è qualcosa di fermo, di malinconico, è sì, come usiamo come slogan, un ingranaggio collettivo, ma deve essere anche allo stesso tempo la possibilità di rivedere dentro agli obiettivi, dentro anche appunto i movimenti, dentro le cose che si fanno, questo senso che troviamo dentro anche alla memoria delle cose che facciamo. E quindi diciamo che nell'appello iniziale della campagna Non dimentico già si diceva, ci spiegavamo insomma che non fosse soltanto legata al ricordo di Renato, non perché non voleva essere, ma perché questo ricordo sarebbe stato molto più forte se saremmo stati in grado di portare dentro sia le 2 giornate di Renoiz, sia insomma dentro la comunicazione, dentro i contenuti, insomma anche le cose che succedono effettivamente sulla città di Roma, riguardante le vertenze, le lotte, ma anche le tante cose che ognuno vive quotidianamente. E in questo caso si è sposato a pennello con quello che è stata la mobilitazione di questi giorni con i lavoratori dei canili, che hanno appunto preso insomma l'hashtag Io non dimentico, aggiungendoci appunto quello contro le privatizzazioni, ed è diciamo diventata una seconda parte della campagna che ha viaggiato in parallelo, secondo me personalmente rafforzando anche molto quella che si stava già facendo per quanto riguardava appunto Renoiz, ed ha visto arrivare centinaia di partecipazioni attraverso un gesto semplicissimo, appunto quello di fotografarsi con un cartello in mano dicendo la propria, quello di fotografare il cane appunto piuttosto che il gatto, insomma piuttosto che insomma qualsiasi altra cosa, anche insomma trovare un modo per partecipare attivamente da casa, anche da chi insomma non per forza si mobilita in questa cosa, e ha portato poi la partecipazione sì di appunto Michele Zero Carcare, ma anche altri artisti che si sono aggiunti e soprattutto nelle prime settimane appunto ha fatto parlare di sé questa campagna, soprattutto per quanto riguarda la vertenza appunto dei lavoratori dei canili e dei gattili anche comunali. Allora forse la domanda è questa, insomma, secondo te questa sensazione insomma si riporta dentro anche quello che avete fatto e dentro queste giornate, e se ha senso quindi continuarla in qualche modo e farla anche allargare, cioè che questo modo appunto di comunicare, che può essere semplice, e questa appunto campagna Non dimentico possa diventare anche magari utile ad altre cose che si aggiungono, ad altre vertenze, ad altre lotte insomma e quant'altro. Sì, assolutamente, guarda, noi abbiamo fatto nostra non a caso la campagna Io non dimentico legata a Renoiz, perché a parte il fatto di riconoscere quei valori dentro le lotte, cioè nel senso perché molte volte quando si parla di politica, si parla di memoria, si parla di lotte, di vertenze, si dice che alcuni valori sono, si dice, non lo diciamo noi compagni, ma insomma nella società diffusa si dice che alcuni valori destra, sinistra, invece no, noi pensiamo che le lotte che si fanno, le lotte sociali, le lotte sui lavori, sul lavoro, le vertenze, l'auto-organizzazione abbia valori forti che riguardano l'antifascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo e che siano legati alla memoria storica di questo paese. e questa è la prova, cioè nel senso noi qua in questo luogo, Muratella specialmente, negli anni abbiamo incontrato, sono venuti circa 500.000 cittadini romani, abbiamo incontrato di tutto e noi non abbiamo mai fatto una differenza nel trattamento, una differenza di etnia o di colore della pelle o di lingua parlata o di chissà cosa, perché abbiamo imparato che i problemi di questa società sono trasversali, riguardano tutti e tutti allo stesso modo. Quindi in questo noi ci riconosciamo dentro questa campagna, no? E quindi legare questi valori con i valori invece che noi portiamo avanti dentro la vertenza è stato fondamentale, per poi avere una cassa di risonanza importante, per far sì che tutto questo sia intellegibile, sia condivisibile e sia riproducibile, perché poi quando si fanno vertenze, quando si ha la velleità di allargarle, lo si deve fare anche concretamente, e questo è un modo concreto che noi abbiamo trovato per allargare le parole d'ordine che noi abbiamo utilizzato, per far sì che attraverso la campagna Io non dimentico, per far sì che si possa produrre qualcosa di riproducibile e che, nella speranza che con noi e dopo di noi e insieme a noi, perché la nostra battaglia non è certo finita qua, si possano unire e continuare quindi su questa roba qua, su questi temi qua, su queste parole d'ordine qua. Io penso che la forza, se noi siamo stati in grado di controbattere fino adesso colpo su colpo, è proprio perché abbiamo scelto di condividere con questa rete, con quella rete anche come Roma Comune, che è la piattaforma nata appunto sulle zone temporaneamente liberate. E quindi diciamo che noi continueremo, e ha senso continuare questa battaglia, perché lo dicevamo prima, questo è un momento in cui si va verso un cambio, un cambio di modello che è basato su il taglio orizzontale e impoverimento della società, e bisogna trovare, per rimanere ottimisti, e noi in questo lo rimaniamo visto che oggi siamo di nuovo di fronte all'assessorato, bisogna trovare degli spazi comuni, e questo credo è dimostrato, questa vertenza sta dimostrando che quello può essere uno spazio comune. Benissimo, noi ti ringraziamo perché la mattinata si preannuncia, dovevamo fare una cosa veloce ma non la faremo affatto veloce, perché insomma fioccano le telefonate. Noi ti ringrazieremmo tanto e a risentirci nei prossimi giorni, grazie mille, a voi, ciao, grazie a voi, buona serata, giornata, per stasera, ciao. A salutare una sorella che era una pantera nera, adesso un cruccio. 23 aprile, su quel pontile, da poco ripartito il mercantile finale. Ora so, a Lampedusa è crudele il destino, qui è un mare bellissimo ma anche un mare assassino. Ma quanta umanità tra le onde del mare, quanta verità dalla nave di Milano, quanta dignità, Lampedusa lo sa, che frega un cazzo agli italiani da fare. La Lampedusa lo sa, Lampedusa lo sa, qual è la sua verità, qual è la sua dignità. Lampedusa lo sa, si spezza il pane, non si lascia comincia a negare. Non si lascia una barca, 4 giorni in mezzo al mare, bloccata lì da una corvetta militare, 13 soldati italianissimi, ma senza un cuore più parlare. Mentre i turchi 13 marinai si lanciavano in soccorso, hanno avuto dietro solo guai, gettato le scialuppe davanti a onde altissime. La nave Lavinia li puntava contro un missile, bloccava tutti i porti, tutti gli imbocchi, per respingerli in Libia con la paura negli occhi. Lampedusa lo sa, non è un reato migrare, stasera sarà un ponte, non una barriera esemplare. Migrano balene e gli uccelli migratori, migrano gli esseri umani e io non calmo i miei bollori. Saliti a bordo, saliti nell'inferno, il più assassino di tutti è senza dubbio il governo. Ma quanta umanità tra le onde del mare, quanta verità dalla nave Lavinia, quanta dignità, Lampedusa lo sa, che frega un cazzo agli italiani da fare. La, la, Lampedusa lo sa, Lampedusa lo sa, la, la, Lampedusa lo sa, Lampedusa lo sa. Qual è la sua verità, qual è la sua dignità? Le nostre braccia aperte come finestre, questa canzone la dedichiamo ad Esther. A un funerale pieno di digos, ma anche di fratelli con cui condivido il grido, perché questo è un mondo assurdo. Senti sulle coste l'onda d'urto, puoi capire che mi ci catapulto e mi suona nella testa come un antifurto. Quante volte questa porta è stata chiusa e quante tombe senza nome a Lampedusa. Quante volte questa porta è stata chiusa e quante tombe senza nome a Lampedusa. Benvenuti rifugiati, benvenuti gli immigrati, benvenuti. Benvenuti gli immigrati, benvenuti rifugiati, benvenuti. È sempre un dispiacere sfumarla, sono le 11.30, però era quasi finita. Sono le 11.30, tra pochissimi minuti un'altra telefonata, nel frattempo insomma continuiamo ad ascoltarci qualcosa e tra pochissimo di nuovo in voce. Ed allora un saluto a chi sta dall'altra parte del telefono, un saluto e una buona giornata, ciao Luca. ciao a tutti, ciao. E insomma, qui in studio siamo, come detto precedentemente, anche con Mattia, con un altro compagno, e volevamo parlare insieme della tua partecipazione alla serata di stasera e anche di tutto quello che ruota prima, dopo, durante, intorno anche alle nostre vite, perché insomma ne vogliamo fare tutto un calderone, ecco. La serata di sabato? Sì. Serata di sabato, sì, che sarà. Sì, ho detto stasera, scusami, perdonami. No, vabbè, perché poi c'è il 27, il 29, cioè sabato 29 a Parco Schuster, c'è la grande, diciamo, il grande raduno che si fa da nono anno dell'assassinio di Renato Buggetti, Renoit 2015. E per quanto ci riguarda è la seconda volta che partecipiamo a queste riunioni che si fanno, e che siamo, insomma, facciamo con grande amore, con grande emozione, orgoglio anche di partecipare, di essere una delle voci che cercano di ricordare la storia di Renato Biagetti, e anche di essere appunto elementi positivi dentro questa città. Ma la realtà delle città è fatta dalle persone. Le persone poi si nutrono appunto di questo sentire diffuso, di questi sentimenti diffusi che sono a volte negativi, come nel caso che ha dato la mano di chi ha ucciso appunto Renato, ma sono anche positivi, che sono rappresentati da tutte le belle storie che facciamo noi appunto nel corso dell'anno, degli anni. E quindi vederci appunto a fine d'agosto a Parco Schuster è un modo appunto anche per rincontrare tutta la Roma che appunto cerca di mettere in moto questi elementi positivi e di darci il via per l'anno, perché poi chiaramente combattere il fascismo, combattere quel tipo di fascismo poi che ha ucciso Renato, che è un fascismo sociale, perché poi che cosa ha animato la mano assassina? L'ha animato appunto questo sentimento che porta a dire, cioè, chiaramente, cioè, ma i Rom vanno ammazzati da bambini, i profi vanno ammazzati, tutti, cioè, poi fondamentalmente questo tipo di sentimento. Sì, questa educazione all'odio. Sì, di prendersela come diverso, di sì, sì. Debole, di pensare. E poi noi abbiamo scritto una canzone appunto che è Giù le lame, che dice a un certo punto: pensi che la forza è questa, ma non sai cos'è il coraggio sociale, certo. Invece di incontrare tutti gli altri e di costruire la vita. La vita bella, la felicità, poi dov'è la felicità fondamentalmente? Nella costruzione appunto di queste nuove realtà che ci troviamo davanti, che sono esaltanti nel momento in cui appunto incontriamo gli altri, ci parliamo, creiamo insieme a loro, li ascoltiamo, ci cambiamo gli altri, ci facciamo cambiare, tutto altro. E poi d'altra parte però è pieno anche di questi elementi negativi con cui dobbiamo fare i conti, e che quindi ci impegnano, insomma. E quindi la serata di sabato sera, la serata che poi inizia dal pomeriggio, è appunto l'occasione per parlare di noi, per parlare di come è fatta questa città, per ricordare Renato, raccontare la sua storia sempre anche alle nuove generazioni che arrivano, che magari non sanno proprio chi è Renato, che possono ritrovarsi di fronte a queste cose di nuovo. In fondo una cosa quasi simile è successa anche quest'anno a Cremona nei confronti di Emilio, anche se un po' diversa la situazione, però questi sono pronti a uccidere delle persone, degli esseri umani, quasi per niente, insomma, e sì, in occasioni così anche sporadiche. E quindi noi dobbiamo essere organizzati per difenderci, per difendere appunto la società da questa situazione, e questo lo facciamo a tutti, a tanti livelli, diciamo anche appunto importante con la cultura, con la musica, con le parole, con i racconti, con gli eventi, costruendo appunto una realtà positiva, là in cui tutti quanti cerchiamo di ritrovarci. Certo, no, io ho fatto quel lapsus dicendo la serata di stasera perché, insomma, come te sai meglio di me, oggi c'è una cosa a Focene, un'iniziativa a Focene, per cui diciamo darei anche la parola, anche per farti riposare un attimo, a Mattias, così stiamo, insomma, sì. Parliamo meglio. Sì, di vai. Ciao, perfetto. Luca. Ciao. No, come al solito, te in poche parole sei riuscito a mettere il mondo intero. No, vabbè, riguardo a questa sera, a oggi, in realtà oggi pomeriggio, noi saremo come tutti gli anni a Focene, al Buena Onda, che fu appunto proprio il posto dove stava Renato quella sera, appunto a divertirsi insieme alla sua compagna, all'allora compagna e il suo, insomma, un suo amico, dove appunto poi è venuto tutto quello di cui appunto sappiamo. E come tutti gli anni, appunto, sarà un momento per stare insieme, per giocare a rugby, per incontrarsi, e sicuramente è un momento a cui noi teniamo particolarmente, in cui in realtà insomma, è diventato un momento che vede ogni anno un sacco di persone, anche tanti che non per forza appunto hanno conosciuto Renato, perché appunto anche quello che te dicevi è fondamentale, cioè il fatto che non siamo ancorati appunto malinconicamente alla memoria, perché come dire, con un sentimento quasi cristiano, ma invece appunto la vediamo proprio in una prospettiva, insomma, proprio di dinamica, di costruzione, cioè per cui è fondamentale e importante proprio se si ha in mente che c'è qualcosa da costruire. E infatti andrei proprio su questo, e su cui appunto proverei a dire anche insieme a te due cose. Tu le dicevi in pochissime parole adesso, quest'anno appunto noi abbiamo provato a scriverlo anche nell'appello, nel comunicato iniziale, appunto, di come tutti gli anni, che cerchiamo sempre appunto di farlo essere qualcosa che contestualizzi quello che accade, e quello che accade purtroppo è qualcosa che dal punto di vista del fascismo, proprio possiamo chiamarlo tranquillamente così, è molto preoccupante. E lo è non soltanto in Italia, perché c'è Salvini e perché ci sono i fascisti e perché viene data un'agibilità sempre maggiore, ma non soltanto ai militanti appunto fascisti, ma a quell'idea nel sociale che ha a che fare con l'odio verso i migranti, ha a che fare con l'odio per i più deboli, ha a che fare poi con eventi come quelli di Tor Sapienza, come quelli del Casale San Nicola, dove strumentalmente appunto anche, come dire, non solo l'emergenza umana poi in realtà delle vite, ma anche sociale, non diventa più una responsabilità, come dire, che qualcuno ma in realtà al di là anche di chi se ne dovrebbe assumere responsabilità, proprio noi siamo anche spesso assenti da riuscire ad essere solidali in questo, e viviamo in una Roma che agli occhi di molti sembra essere piena di vigliacchi in qualche modo, cioè di persone che se la prendono con chi guida l'auto e non con chi governa, come dire, il servizio ATAC, dove si picchia, insomma, il più debole. È esattamente quella dinamica anche mentale che ha portato poi all'omicidio, appunto, l'assassinio di Renato. E quindi effettivamente quello che sono gli eventi anche culturali si mettono dentro un contesto per cui l'elemento culturale è in una fortissima difficoltà, cioè viviamo in una povertà culturale enorme, spesso anche quella fatta di ricordi, nel senso che non c'è più produzione culturale, comunque ce n'è poca o ne vorremmo di più, e a volte ci attrezziamo per farla con tutte le difficoltà. E quindi anche appunto quest'anno Renoiz vorrebbe essere questo, anche sabato, un appuntamento che parla con elementi che non sono appunto per forza quelli del, come dire, dell'uso militante dell'antifascismo, ma che cercano di mettere al centro elementi culturali che vanno dalle produzioni sui banchetti, piuttosto che le mostre, piuttosto che appunto la musica e appunto i messaggi che cerchiamo di portare attraverso questi. Quindi ti lascio la parola un po' sul contesto, insomma, che comunque sia anche sulla necessità in realtà di uscire da questo contesto, perché io credo e crediamo anche che non ci sia soltanto questa a Roma, ma che c'è una parte che soffre di quello che avviene e che magari si è vista anche a volte, si è mostrata, come è successo il 28 febbraio per esempio, quando c'è stato Salvini a Roma. Comunque 30.000 persone hanno detto che non gli andava bene qualcosa, che erano disponibili a scendere in strada su un altro modo anche di intendere, tutto da articolare sicuramente, però ci stavano. Sì, sono d'accordo. Io mi immagino anche immagino che appunto oggi nell'antifascismo si è vissuto in momenti in cui c'è spazio per tutti, nel senso spazio veramente dai bambini alle anziane, cioè veramente momenti di popolo, si riprendono pezzi di città, che si prendono pezzi di giornate, di serate, di piazze, di parchi, che dicono questi sono parchi dove si vive appunto una Roma meticcia, che è quella che noi vogliamo, è una proposta dove si sta bene, che noi vogliamo riprodurre di nuovo di giorno in giorno e farla sempre più grande, più organizzata. E queste sono, cioè, per me, io vorrei appunto vivere un antifascismo di questo tipo, di questo livello, oltre, cioè, chiaramente saltante è stata il 28 febbraio contro Salvini, come saltante, che ne so, situazioni come quella appunto, dico una cosa per dire, una che ci ha riguardato direttamente, come ad esempio riprendere il lago da una speculazione, come era stata quella del lago della Smia, insomma prenderci palcoscooter, farlo vivere da tantissime persone appunto di tutte le età, vivere la scuola, riprenderci appunto pezzi di tutta questa città, pezzi della società, e dimostrare che la Roma meticcia è una Roma esaltante, bella da vivere, e che noi vogliamo questa cosa e la vogliamo difendere, e non ce la toglieranno, perché poi fondamentalmente dietro questi ci stanno tanti interessi, ci stanno tanto schifo, tanto appunto lucrare, tanto rapinare veramente il bene pubblico, rapinare i soldi pubblici, che poi si vede, insomma, sono uscite fuori tutte lo schifo che ci stava dietro, ad esempio, le varie rivolte contro di me, contro i migranti, certo, eccetera. E quindi non so, vi lascio la parola pure a voi per dire, non so, io sono contento appunto di esserci sabato, oggi non potrò essere a Focene, saluto tutti quelli che ci saranno, giovedì però saremo lì a Parco Schuster, tra l'altro ci sarà Swan, DJ Swan, con cui abbiamo scritto il disco Banditi, uno dei dischi più amati e più belli appunto della nostra carriera, appunto lo canteremo insieme, ma poi ci saranno anche gli altri castati, ci sarà Lucci, poi direte voi tutti gli altri che ci stanno. Comunque sarà una bellissima giornata in cui invito tutti quanti a venire, a dire da loro, a stare insieme. Certo, oltretutto, vabbè, per riprenderti, tutti sappiamo tutti che Roma meticcia è nata e meticcia è, cioè, inutile fare finta, cioè, sono 2000 anni che meticcia Roma, uno può fare finta di non vedere le cose. Però ti ringraziamo tantissimo, Luca, grazie. Vabbè, io vi ringrazio a voi per tutto quello che fate. Un bacio e un grande abbraccio, ci vediamo sabato. Ok, ciao ciao. Ciao Luca. Ciao. Ciao, ciao. He gon' drink some devil soup. Can't bribe him around the corner. Can't test him fate. Down for some man, Lord. Down for some man. I said down for some man. Do run. Down for some man. Qualcuno uscito nella strada col coltello in tasca, senza cultura per la strada, cosa vuoi che nasca? Chi accetta di portarla accetta il sangue. Ha massaggiato il suo sapore nelle tue scorribande. Se nulla è dentro di te, puoi correre quanto ti pare, nulla corre con te. Quando sei cresciuto male, tu vuoi dare in zacca il niade. Aspetta. De la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Au-delà de toutes frontières, plus de ghetto, plus de barrières. On l'ose, tous des frères, plein nos repères. Jacques Brelbon, Marley, Aznav, l'Abbé Pierre. Notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs. On en a fait un ministère pour un monde meilleur. Confluence d'influence, de sonorité différente. De Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche. Du bon son pour tout le monde, du Joe Dernier jusqu'au grand-père. L'album populaire, version 3ème millénaire. Juste pour faire bouger les consciences, va célébrer, juger, rien à faire. Qu'à entrer dans la danse, laisser aller à l'heure du rompi communautaire à l'heure d'une troisième guerre. Aux ordres, on reste réfractaire, attitude salutaire. Que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine, une bombe, une balle populaire. Questi sono sempre gli 87.9 e loro sono MAP con Bal Populer. Sono le 11.48 e questa è Radio Onda Rossa da Via De Volci 56. E già che ci siamo, 06 49 17 50, il nostro numero di telefono. Un buongiorno, buon proseguimento di giornata a tutti e a tutti. Stiamo continuando a parlare delle 3 giorni per Renois, oggi pomeriggio a Focene e poi sabato a Parco Schuster, e con vari interventi, e quindi insomma una parentesi musicale e poi ritorniamo in voce. Les bombardements, les invasions, les tyrannies. J'rime pour la révolte, les coups d'état, les rébellions, les mutineries, les résistances et l'insurrection. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire t'illumine, une bombe, une balle populaire. Violon accordé, on grosse caisse, à les caisses claires. C'est clair, frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières. Et dans nos concerts, les têtes de moules, des Robert. Tous des bounoules, des négros, des chintops, des chabert. Une seule et même musique, un seul et même bon son. Bon sang, bonsoir, ça flaire pour la révolution. Que les choses bougent enfin, que les gens bougent ensemble. La corrie humaine divise quand notre musique rassemble. Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave. Tu fais maison, l'artisanat, la sonde brave. Un fennec, du bitume, du pavé, sale crevard. Les tontons flingueurs du macadam, du boulevard. Les poètes de l'asphalte, les artisans du béton. Chercheurs de rimes, remplis de palantés et flons. Je t'envoie tel un kamikaze révolutionnaire. Une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Qu'à mettre ta clé sous la porte. Ces châteaux sombres, tes airs ou juste nos illusions mortes. Vite fait ce réinventaire de ces chambres abandonnées. Au lire couvert poussière, au parquet noir sans sécher. Sur les carreaux des fenêtres, on pourrait écrire à la craie. Toute main fera disparaître des choses qu'on a cru vraies. Dans ce monde à la dérive, pareil aux autres animaux. Nous n'aurions d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Ainsi donc, J'aurais plus rien à voir. Circuler tant que se finirait notre histoire. Sous le poids des malédictions. Faudrait faire un monde honorable, raser les murs, couper le ton. Se résigner aux pitoyables, rêve de goulag en ghetto. Tout serait que simulacre. Toute espérance en lendemain, rien ne servirait de se battre. Pour un monde à visage humain, faudrait brûler tous les livres, revenir des animaux. Sans avoir d'autre choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Ainsi donc, contre la faim, la haine, contre le froid, la cruauté, la longuette incertaine. Pour affirmer sa dignité, il nous faudrait tourner de la bataille surhumaine. Que depuis l'âge des cavernes, l'homme à lui-même s'est livré. Tirez pas sur le pianiste qui joue d'un seul doigt de la main. Vous avez déchiffré trop vite la musique d'être humain. Dans ce monde à la dérive, son chant demeure et dit tout haut qu'il y a d'autres choix pour vivre que dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Dans la jungle ou dans le zoo. Ed allora, tra pochi minuti parleremo anche con un'altra degli ospiti della serata musicale di sabato in ricordo di Renato Biagetti del suo omicidio, che ha provocato insomma un'iniziativa che ormai ha il suo nono anno per ricordare lui, ma non solo per ricordare lui, per dare un messaggio di vita contrapposto a un'azione appunto di morte. E quindi continueremo a parlare di questa serata, anche se oggi pomeriggio c'è un'iniziativa importante a Focene, come detto poc'anzi. Siamo sempre negli studi di Radio Onda Rossa. Io chiederei a chi è con me dall'altro capo del microfono di raccontarci insomma come si svilupperanno queste giornate, e nel frattempo facciamo anche altri collegamenti telefonici. Ti ringrazio. Sì. Eccoci, prima di ricollegarci appunto con le altre corrispondenze, ripeto al volo insomma leggo il programma. Oggi appunto a Focene dalle 17 al Buena Onda ci sarà un torneo di beach rugby aperto a tutti, ovviamente non solo a chi è rugbista. Dopodiché dalle 20 andremo al bilancione occupato per una pericena, che è appunto questa occupazione a Fiumicino che ormai appunto tutti conosciamo, molto importante anche su per quanto riguarda insomma le lotte contro le speculazioni e anche ambientali. E dopodiché, per quanto riguarda il 29 sabato, appunto ci rivediamo dalle 17, insomma noi saremo lì dalla mattina dalle 17, però inizia insomma la parte aperta al pubblico, cioè alle attività. Ci saranno stand e banchetti informativi di tante realtà diverse della città e appunto sulle varie lotte, sulle varie anche produzioni indipendenti. Dopodiché dalle 17 inizieranno le performance e laboratori per bimbi e bimbe con canterie comuni e kirimba, che è una forma di samba. Dalle 18 iniziano i concerti, quindi inizia la programmazione, che appunto leggo al volo i nomi: Made in Luna, Spam, Ilaria Viola Quartet, Giulia Nania, Lo Stres Altos, questo non so, Fable Fetenzer, Lucci, The Broken Speakers, Militantate gli Assalti, Ice One. Questa è la programmazione. E poi noi la trasmetteremo poi dagli 87.9 da una certa ora in poi, mi sembra di avere capito. Sì, da una certa ora in poi sarà in streaming, e poi a breve appunto ci collegheremo con un altro di questi artisti, con Giulia Anania, qui su Radio Onda Rossa.